Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, ho visto il programma di Fazio in cui era ospite Roberto Saviano. Apprezzo il coraggio e la determinazione di Saviano, però oltre alla denuncia serrata che lui fa di questo fenomeno, mi farebbe piacere sentire anche qualche proposta. Qualcosa che ci possa dare la speranza che le cose possano cambiare. Ormai sono tanti anni che le istituzioni cercano di combattere il fenomeno mafioso con poco successo. Penso che l'errore sia quello di combattere il fenomeno principalmente dall'alto. Mi fa sorridere il clamore sui media quando si consegue un arresto eccellente, come se quando si arresta un Provenzano o un Rina avessimo debellato o sconfitto finalmente le mafie. Tutto si riduce a ostentare questi delinquenti, che forse erano già sul viale del tramonto, come fossero dei trofei. Io penso che il vero problema sia la microcriminalità. Basta guardare al tipo di condanne che vengono inflitte a piccoli delinquenti per capire quanto sia sottostimato il fenomeno. Gli atteggiamenti di certi magistrati mi fanno pensare che vivano sulla luna. Forse avranno conseguito dei buoni voti all'università, ma la realtà del marciapiede non sanno neanche cosa sia. Penso che questo circolo vizioso si romperà solo se riusciremo a recuperare al lavoro e allo studio il maggior numero di ragazzi dei quartieri degradati. Sarebbe già qualcosa imporre loro di studiare e imparare un mestiere quando sono nelle carceri. Io sono un napoletano che si è trasferito da diversi anni al nord. Conosco molto bene quella realtà. Quando vivevo giù, non mi spaventava il grosso camorrista. Di solito non li vedi mai perché sono vigliacchi. Quando hanno fatto una lunga detenzione, hanno il terrore di tornare dentro. Ecco, mi farebbe piacere che Saviano ogni tanto, alle sue denunce, accompagnasse anche una proposta, una possibile soluzione. Far passare questo messaggio darebbe speranza ai giovani che vorrebbero un futuro diverso e anche a coloro che, spesso a malincuore, sono stati costretti a lasciare la propria terra. Comunque, sono grato a Saviano di aver acceso i riflettori su una realtà per troppo tempo ignorata e forse anche sottovalutata. Non è mai troppo tardi, ma si può fare sempre meglio. Auguri. Ciro. Vorrei commentare la proposta di liberalizzazione della gestione acqua. Io non dubito del fatto che le liberalizzazioni possano, se attuate correttamente, con un controllo serio e continuato, garantire al cliente un servizio serio e ad un prezzo adeguato. Tuttavia, i precedenti visti in Italia, fatta eccezione per le telecomunicazioni, non fanno presagire altro che aumenti imprevedibili e spesso ingiustificati. La benzina, se non ricordo male, fu la prima liberalizzazione effettuata in questo paese e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo la benzina tra le più care d'Europa ed è inutile che i lobbisti diano la colpa ad altri. I distributori telefonano ogni mattina ad un numero verde per sapere il prezzo consigliato e su quello possono giostrare ben poco. Nel mio paese, in provincia di Pescara, con la privatizzazione il gas non ha subito grossi aumenti, ma a casa dei miei genitori, a Chieti, dove non c'è ancora stata liberalizzazione, una pentola d'acqua impiega 7-8 minuti a bollire. A casa mia, più di 15. Sulle autostrade abruzzesi, privatizzate qualche anno fa, il pedaggio è stato aumentato ben più dell'inflazione. Si parla di raddoppi e sembra che gli aumenti fossero previsti nel contratto. A questo punto noi semplici cittadini ci domandiamo: se cose non vitali vengono gestite in questo modo, una cosa assolutamente necessaria come l'acqua, che tipo di guerra potrebbe ingenerare? È giusto che i privati possano fare business su tutto ciò che hanno a disposizione, ma è anche giusto che vengano controllati in maniera continuativa e assolutamente incontrovertibile, senza che i gestori si lamentino sempre di essere sotto controllo. In fondo, non gliel'ha chiesto nessuno di assumere la responsabilità di questi servizi. Non credo nel loro buon cuore. Tutto è a scopo di profitto. Giovanni. Egregio direttore, a coloro che protestano perché si costruiscono i termovalorizzatori anziché puntare sulla raccolta differenziata, vorrei dire che in linea teorica hanno ragione. Però l'esperienza mi ha fatto capire che la gestione dei rifiuti, esplicitata con modalità che permettano il recupero differenziato ed il successivo riciclo, è un processo che richiede una lunga evoluzione. A Torino, dove abito, i primi contenitori per la raccolta differenziata furono le campane per il vetro, che apparvero agli inizi degli anni Ottanta. Successivamente furono installati i contenitori stradali per la raccolta della carta, poi quelli per la plastica e, per ultimi, quelli per la frazione organica. Solo agli inizi del 2000 è incominciata la raccolta porta a porta, sostituendo i contenitori stradali con quelli condominiali e casalinghi. Di anno in anno, questa nuova organizzazione si sta espandendo, dalle periferie al centro. Ma è un processo lento perché richiede cambiamenti molto profondi. Prima di tutto, la mentalità delle persone, che devono abituarsi a differenziare i rifiuti a casa. Poi, i contenitori condominiali. Le realtà abitative non sono tutte uguali. Non sempre ci sono cortili a disposizione dove collocarli, e questo richiede un grande sforzo organizzativo. Infine, il prelievo da parte dell'azienda rifiuti. È necessario sostituire completamente il parco mezzi. Non più grandi camion compattatori, ma tantissimi piccoli automezzi e l'organizzazione del lavoro. Adesso l'autista è anche raccoglitore, quindi cambi di mansioni, problemi sindacali, eccetera. A Torino il processo, iniziato quasi 30 anni fa, è lungi dall'essere completato. Come si può pensare che in regioni in cui l'organizzazione della pubblica amministrazione non brilla per efficienza, non prendetemi per razzista, sono meridionale anch'io, si possano bruciare le tappe? Spesso si portano ad esempio realtà di poche migliaia di abitanti, dove la raccolta differenziata ha raggiunto percentuali elevatissime. Ma come si fa a confrontare la situazione di metropoli con densità abitative elevatissime con quelle di paesini semirurali? Il termovalorizzatore è, se ben gestito, il male minore rispetto alle discariche a cielo aperto che hanno devastato il territorio della Campania Felix e può dare il tempo necessario a realizzare una raccolta differenziata ben pianificata, senza vivere tutti i giorni nell'emergenza. Francesco, Torino. Egregio direttore, i senatori difensori della vita oggi decidono che la nostra vita non ci appartiene. Che un medico, evidentemente illuminato dalla grazia, quella che noi non abbiamo, deciderà se la nostra dichiarazione su cosa fare del nostro corpo è compatibile con l'indisponibilità della vita. Che in ogni caso non potremo rifiutare che un sondino nello stomaco o un tubo in gola ci portino la colazione e l'acqua di cui abbiamo bisogno per vivere. Chissà se nessuno dei senatori difensori della vita avrà mai a che fare con un parente stretto, un figlio, una madre malati, ad esempio di cancro al polmone, che in fase terminale non può essere idratato a forza appena l'edema polmonare e un'atroce morte per annegamento. Sospetto che, se questo accadrà, il senatore, confidando nella sua influenza e capacità persuasiva, prenderà da parte il personale medico e, nella massima riservatezza, raggiungerà un accordo che eviterà al proprio congiunto almeno le sofferenze inutili, quelle che il senatore ha deciso di infliggere per legge al resto della popolazione. Volevo avvertire che noi, uomini e donne normali, faremo lo stesso per noi e per i nostri cari. Cercheremo di metterci d'accordo con medici e infermieri, dotati di umanità e sensibilità e buon senso, per continuare a vivere e a morire con dignità, nonostante una legge disumana e barbara. Se c'è un'obiezione di coscienza che merita davvero di essere praticata in nome dell'uomo, è questa. Nicola. Caro Nicola, la legge sul testamento biologico ha provocato forti polemiche e altrettanto forti divisioni, anche perché alcuni hanno chiesto alla legge quello che la legge non può dare. La legge, ogni legge, dovrebbe salvaguardare dei diritti e rispettare la libertà delle persone e insieme evitare e punire ogni abuso che possa ledere i diritti e le libertà. Ma quando si parla della vita e della morte, si è di fronte a dimensioni che non possono, per loro natura, essere rigidamente codificate e puntualmente determinate. Ma lo Stato può e deve offrire i mezzi e insieme le garanzie perché la volontà delle persone venga rispettata, ma deve lasciare anche spazio perché possa esprimersi la coscienza delle persone, la loro responsabilità, senza dimenticare l'obiettivo ineludibile di difendere i più deboli. Detto questo, ogni schema diventa angusto e ingombrante. Ogni codificazione può diventare soffocante di fronte ai mille diversi casi personali che ci pone di fronte più o meno direttamente la realtà quotidiana. E allora non bisogna chiedere alla legge quello che nessuna legge può dare, l'amore per le persone, che amore per la vita e sulle cui basi si possono assumere anche le decisioni più difficili. Thank you. gentile signor direttore. E così, sotto agli occhi del mondo intero e infischiandosene altamente delle numerose risoluzioni dell'ONU, organizzazione a mio parere da sciogliere e sostituire con una commissione internazionale più economica, più snella, più efficiente, dinamica, severa e veloce, l'Iran ha superato quella soglia tecnologica che gli permette di produrre una bomba atomica. Alti funzionari israeliani sostengono, inoltre, che il paese islamico possiede missili in grado di portare testate nucleari. Un Iran in possesso di armi nucleari è una minaccia per il mondo intero e non solo per Israele. Le risoluzioni fin qui votate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e che chiedono all'Iran di sospendere l'arricchimento dell'uranio non hanno per Teheran nessun valore. Per il presidente iraniano Ahmadinejad sembra non esserci alcun margine di trattativa con l'Occidente sulla questione del nucleare. In un'intervista, intanto, il cancelliere tedesco Angela Merkel sostiene che le sanzioni dell'Unione Europea contro Teheran sarebbero inutili, perché solo con il coinvolgimento di Russia e Cina si poteva sperare di bloccare il programma nucleare dell'Iran. Obama porge la mano all'Iran e si troverà in mano una bomba atomica. Com'è possibile avere fiducia in un paese che condanna gli omosessuali alla lapidazione e che nega l'Olocausto? L'articolo 102 del codice penale iraniano prevede di seppellire gli uomini fino alla vita e le donne fino al petto e di prendere i condannati a sassate fino alla morte. Io mi rivolgo alla Chiesa. Ci indichi come porgere l'altra guancia. E mi rivolgo anche all'ONU. Perché non riesce a garantire la pace nel mondo intero? A che serve l'ONU? Quanto costa l'ONU? Marco. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.